La gamma della Bravo si arricchisce con il nuovo 1.6 turbo diesel, un propulsore perfettamente dimensionato con prestazioni analoghe, se non addirittura migliori del 1.9 multijet. Vivace quanto basta, è morbido, parsimonioso e persino più pulito. Con il filtro antiparticolato, tra l'altro, rientrerà nelle future norme antinquinamento Euro 5. Nome Fiat Bravo 1.6 Multijet 105 Emotion. Carrozzeria 5 porte, 5 posti. Dimensioni lunghezza 4,33 metri, larghezza 1,79 metri, altezza 1,49 metri. Potenza 105 cavalli, trasmissione trazione anteriore, cambio manuale a 6 rapporti. Chiudiamo con il prezzo 21.181 euro.